Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Jazz on megahertz. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi due lavori, ascoltiamo due lavori usciti recentemente, lavori di una certa importanza, insomma, di un certo spessore, e lavori orchestrali, anche di scrittura. Si tratta dell'ultima uscita, appunto, di Wayne Horwitz. È un disco uscito per la Songline che testimonia il lavoro che ha preparato nel tempo, ormai negli ultimi 2 o 3 anni, Horwitz per orchestra, che poi anche ha eseguito a Bologna con un'orchestra europea e che era dedicata a Bats Morris. Ma diciamo che ha un aspetto progettuale più ampio e più complesso che... fa parte, diciamo, di un tessuto che si rivolge anche a un lavoro didattico all'interno del suo centro, un centro che si occupa anche di danza, di coreografia e di arti varie. E difatti questo lavoro, che è chiamato The Royal Room Collective Music Ensemble, questa formazione che dà vita a questo lavoro, è anche una a due parti, una parte anche legata proprio alla musica per scena, musica che risente molto dell'elettronica, che tra l'altro Wayne Horwitz è anche docente di musica elettronica, ma che sicuramente è meno ascoltabile in quanto tale. Invece il lavoro orchestrale è decisamente ben riuscito. Abbiamo sentito anche qual era il tessuto orchestrale che è riuscito a sviluppare, anche quando lo si è ascoltato in occasione di Angelica. E qui suona con una formazione più consolidata, sono vecchi collaboratori, molti di questi quantomeno sono vecchi collaboratori come Brigham Krause, Edwin Kang e vari altri, Sherrick per esempio, un altro dei sassofonisti, dei musicisti spesso frequenti nelle formazioni di Horwitz. Non li cito neanche tutti, anche perché poi è importante più che altro l'aspetto compositivo, a mio avviso, che dà anche un carattere di importanza notevole. E come sempre poi avviene per Horwitz, c'è questo atteggiamento di memoria importante rivolto alla musica americana, alla musica anche country o comunque delle grandi pianure. Viene in mente naturalmente Aaron Copland, anche Ives, tutto quello che è stato anche la storia della musica del Novecento americano, oltre naturalmente al gospel, al blues e al jazz in quanto tale. Ascoltiamo un paio di composizioni, poi ne riparleremo. Thank you. Thank you. Stiamo ascoltando l'ultimo lavoro di Wayne Horvitz con la Royal Room Collective Music Ensemble, il suo gruppo orchestrale, e nel disco At the Reception, uscito per la Songline. Wayne Horvitz ha sempre in qualche modo prediletto la scrittura orchestrale, già da tempo, tra l'altro all'inizio degli anni 90, nella prima metà degli anni 90 ha dato vita a quell'orchestra straordinaria che era la New York Jazz Composer Orchestra, che purtroppo pubblicò solo due lavori, con tra l'altro una formazione eccezionale, con tutti i migliori talenti sulla scena americana. E, è curioso come attualmente, situazioni di crisi economiche e tutto il resto, non siano mai state così tante le formazioni orchestrali, e anche per quanto riguarda Horvitz, che interruppe questa esperienza proprio per limitazioni economiche, ha avuto modo negli ultimi anni di dar vita perlomeno a due progetti orchestrali, questo e uno alcuni anni fa, che abbiamo già ascoltato questa trasmissione. Ascoltiamo ancora altre due composizioni prese da questo bel lavoro. Thank you. Questo era Wayne Orbis con il suo ultimo lavoro orchestrale, The Royal Room Collective Music Ensemble, At the Reception, un disco uscito recentemente per la Songline, un'etichetta che peraltro è sempre molto attenta anche a queste forme così di confine anche tra la musica contemporanea, diciamo, e il jazz. Direi che si può ascrivere a questo tipo di categoria questo lavoro, questo ricco lavoro di Wayne Orbis. Un altro lavoro orchestrale di cui parlavo all'inizio è anche questo un lavoro ambizioso uscito recentemente per la ECM, il disco di Chris Potter, anche questo orchestrale. Quindi il gruppo underground, che è così chiamato, di Chris Potter, si arricchisce di più elementi, mettendone insieme 11 e appunto proponendo un lavoro di scrittura anche piuttosto raffinata, piuttosto capace, da prova di avere una buona capacità di scrittura orchestrale. È un lavoro composto da una sorta di suite, Imaginary Cities, quindi dedicato quasi, non, anche se non mi risulta, ma potrebbe essere anche ispirato da Calvino. Si aggiungono poi a queste varie città immaginarie anche alcuni altri brani. E direi sicuramente che è un lavoro riuscito, anche per le qualità solistiche dei vari musicisti, infatti sono tutti musicisti di primissimo livello, che accompagnano, poi hanno accompagnato in più occasioni Potter. E la formazione è composta, oltre naturalmente da Potter, con le varie anze, compreso clarinetto basso e soprano, quindi non solo tenore, Adam Rogers alla chitarra, che è sicuramente un chitarrista molto, molto capace da un punto di vista musicale, non soltanto solistico, è un bravo arrangiatore, bravo compositore, riesce a creare anche delle situazioni che riescono a tessere il rapporto anche tra i vari ruoli della formazione. Craig Taborn al pianoforte, anche in questo caso un accompagnatore frequente di Potter, al quale si aggiunge un'altra sorta di aspetto legato, diciamo, alla percussione musicale, che è il vibrafono di Steve Nelson, la marimba, un vibrafono. Fima Efron alla chitarra basso e Scott Colley al contrabbasso, quindi due bassisti di alto livello, con caratteri diversi. E alla batteria, un altro fenomeno, Nate Smith, un altro dei musicisti delle ultime generazioni, tra i più interessanti come percussionista. Tra l'altro la batteria è sicuramente uno strumento che negli ultimi anni ha avuto un'evoluzione e riesce ad avere protagonisti di primissimo piano. A questa quasi doppio quartetto si aggiunge un quartetto d'archi. Un quartetto d'archi capitanato da Mark Feldman, e poi con l'aggiunta all'altro violino di Joyce Amann, da Louis Martin alla viola e da Devin Egger al violoncello. Quindi già anche questa timbrica, la formazione che può suggerire questa formazione, dà un aspetto più orchestrale da un punto di vista classico. E direi che anche in questa esperienza non sono poi pochi i momenti di confine tra quello che può essere anche la costruzione di strutture contemporanee, di musica contemporanea, con quella che è più nel jazz tradizionale e nella storia dell'orchestra jazz, del tipo più tradizionale. E ascoltiamo due delle composizioni presenti in questo bellissimo lavoro. Thank you. Questo era Chris Potter, l'Underground Orchestra, sua formazione orchestrale, un disco uscito recentemente per la ECM, il disco intitolato Imaginary Cities, che è una sorta di suite con un'integrazione di alcune altre composizioni. Una formazione molto ricca di musicisti di primissimo ordine e un lavoro, come abbiamo anche sentito, di alto livello. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le informazioni relative ai dischi ascoltati le potete trovare nel nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione playlist. Salve a tutti e alla prossima. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Thank you.